Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Pomeriggio, troppi match point ha sprecato il Napoli in quel quarto di finale di Coppa di ieri sera. Alla fine è stato punito da una Juventus ancora, direi, abbastanza palesemente sotto shock dalle due ultime sconfitte, ma con il solito coraggio, con il solito orgoglio, al di là che poi il verdetto è arrivato da quella che giustamente viene definita la lotteria dei rigori. Sentiamo i commenti ai microfoni Rai, cominciando da quello di Claudio Ranieri. L'importante è andare avanti, ci teniamo, l'abbiamo detto, è stata una partita particolare perché non riuscivamo a entrare in partita, invece poi dopo nei tempi supplementari abbiamo preso più campo, siamo stati più continui, non abbiamo fatto una grandissima partita, però man mano che ci scaldavamo io credo che poi alla fine meritavamo di vincere. Ma tutte e due non meritavano di perdere, se non altro. Certo, quei 10 minuti, quarto d'ora finali dei tempi regolamentari del Napoli sono stati impressionanti per qualità sua e anche per incapacità della Juventus a quel punto di ribattere i colpi. Cioè, era veramente, si era come arresa, si era consegnata all'avversario e non è abituale vedere una Juve conciata così. Poi ha avuto soprassalto l'orgoglio nei supplementari, è vero, e alla fine il verdetto ci sta tutto. Sentiamo come l'ha preso, non benissimo, è ovvio, l'allenatore del Napoli, Reia. È una delusione fortissima, meritavamo sicuramente miglior sorte e purtroppo niente, non ci è girata bene, abbiamo avuto delle buone opportunità nel secondo tempo, abbiamo creato delle occasioni da gol prima ancora della Juventus, non abbiamo concretizzato e poi alla fine la lotteria dei rigori. Devi avere molta fortuna, noi in questo momento qui non l'abbiamo. Abbiamo fatto bene, ma abbiamo fatto bene anche le altre gare. Solo abbiamo bisogno di quel pizzico di fortuna in più che ultimamente non ci sta accompagnando. Però la squadra ha sempre fatto delle buone prestazioni, abbiamo visto anche questa sera contro una tonica Juventus. Dispiace molto perché avremmo meritato. Avete sentito la lotteria dei rigori che ritorna? Sfortuna, sì, però. Insomma, almeno c'entra lo specchio della porta dagli 11 metri a palla ferma, insomma, non dovrebbe essere impossibile. Dico a palla ferma perché un vero calcio di rigore in movimento a 3 metri dalla linea, Bogliacino o Bogliasino, che si voglia, l'aveva già sbagliato nel finale di partita, quando davvero il Napoli aveva preso nettamente il sopravvento. Ne riparleremo più tardi, magari con i vostri interventi. Adesso apro un capitolo che in realtà non è stato aperto da me, bensì da uno di voi, da un ascoltatore del primo giorno, così si è autodefinito, si chiama Nicola Guarino, ha 36 anni, fa l'aiuto regista in Rai. E adesso vi leggo una parte della sua mail e credo capirete perché l'ho invitato a intervenire in diretta. Prima racconta la sua passione per il calcio, la sua pratica e poi ne parleremo, ma insomma il tema, il clou di questa lettera è questo. Tutto il mondo, scrive Guarino, conosce l'esistenza del rallenti nel linguaggio cinematografico. Lui è nato a Napoli, vive e lavora a Roma, fa l'aiuto regista in Rai, ha fatto molto teatro come regista e attore, ha girato diversi cortometraggi. Cita la definizione di rallenti, e da rallenti arriviamo poi a Moviola, in un piccolo saggio scritto da Alessandro Alfieri. Sentiamo questa definizione. Il rallenti è una figura specifica del cinema. È difficile risalire a un equivalente in letteratura o teatro per ragioni legate alla sua intrinseca natura. Come sappiamo tutti, corrisponde a un rallentamento dell'immagine che provoca una frattura della contiguità tra temporalità diegetica, mica facile, ovvero appartenente all'universo filmico, e temporalità reale. Mentre in teatro questi due registri temporali si identificano, data l'identità tra spazio-tempo della rappresentazione e spazio-tempo spettatoriale, il cinema, risultato di una costruzione spazio-tempo indipendente da quello della fruizione, può valersi di questo mezzo per diversissime finalità. Alla base della maggior parte dei casi in cui viene adottato il rallenti c'è il tentativo di enfatizzazione retorica. Si vuole mettere in evidenza, cioè, un evento, un gesto, per amplificarne il significato o per fargliene acquisire uno differente rispetto a quello che la scena avrebbe se scorresse a una temporalità naturale. Fine della citazione di questo saggio di Alessandro Alfieri. E conclusione di Guarino, per cui la Moviola, che mille volte rallenta un fallo di gioco, lo enfatizza annullando la sua esistenza originale, ed è ovvio che sta seguendo questa teorizzazione citata da Alessandro Alfieri. Guarino, buongiorno. Buongiorno. Mi ha fatto al di là del piacere, perché non è una questione di sposare una tesi o un'altra, ma mi ha fatto piacere perché lei ha pizzicato, da ascoltatore della prima ora, come si è autodefinito, ha pizzicato una mia considerazione dell'altro giorno, e cioè che alla base di tutto, sull'essere pro o contro la moviola, c'è il fatto di dover riconoscere che la moviola è una falsità d'immagine, così io la chiamo. Sì, è un trucco. È un trucco, sì. E l'ha sviluppato in termini teatrali, cinematografici e scientifici. Allora, rispetto a questa, a quello che ho letto e che lei mi ha scritto, vogliamo provare a volgarizzare un tantino di più questo concetto? Allora, in realtà nel passaggio tra il teatro e il cinema si può capire in quella parte che lei ha letto, cioè quando uno guarda una partita di calcio condivide lo stesso spazio-tempo. Nel momento in cui invece guarda una partita di calcio, un evento di gioco rallentato alla moviola, in realtà sta osservando un altro spazio-tempo, perché il rallentamento dell'immagine altera la dimensione spazio-temporale, per cui non sta praticamente dando retta alla sensazione dell'azione nel momento in cui avviene, così come succede guardando una partita, così come si è in teatro, perché si condivide la stessa temporalità dell'attore, ma si sta facendo in certo qual modo, sta guardando un momento diverso. Un momento, di solito si usa il rallenti per enfatizzare un momento, cioè certo, per dargli una certa importanza, per amplificarne appunto il significato. E quindi non sta, se tu guardi un fallo di gioco dal vivo, hai una certa sensazione, perché hai visto il prima e il dopo nella tua temporalità. Se tu guardi un fallo di gioco a rallenti, in realtà stai osservando un altro evento che non ha, questa è una cosa che non ha senso, anche perché c'è un limite anche tecnico. La ripresa televisiva cinematografica avviene ad un certo numero di frame, di fotogrammi al secondo, di fotografie proprio al secondo, sì, messe una dietro l'altra, in modo che l'occhio non si accorga che sono tutte immagini fisse, e quindi al cinema sono 24 fotogrammi al secondo, in televisione sono 25 per una ragione tecnica. In un certo qual modo, se qualcosa avviene più velocemente, in realtà noi mancheranno delle foto, quindi mancheranno proprio dei pezzi di quell'evento. Per cui, per esempio, facendo un esempio molto banale, quando si parla del tocco dell'ultimo passaggio per guardare se il fuorigioco è in linea o più o meno, insomma, a noi a volte potrebbe mancare addirittura il fotogramma del tocco. Potremmo, sì, avere il fotogramma prima e il fotogramma dopo, perché in un secondo possono succedere tante cose. Sembra tanto un 25esimo al secondo, in realtà per esempio il colibrì batte le ali 78 volte al secondo. Il colibrì è più agile. Se lo riprendessimo con una telecamera qualunque, a noi mancherebbero circa 50 battiti d'ali. Quindi 50 volte battere il colibrì, non lo vedremmo. No, non c'è nemmeno Messi veloce come il colibrì, quindi no, infatti, per il calcio, una palla a 100 all'ora in realtà in un secondo può compiere 22-23 centimetri. Quindi insomma in un frame di secondo fa almeno 2 centimetri. E 2 centimetri sono tanti, perché a volte noi parliamo di palle dentro fuori, non so, sulla linea di porta o fuori gioco, basati sui centimetri. Un caso limite è stato domenica scorsa. Ho visto, mi ha raccontato, perché non l'ho visto per fortuna, ma ho sentito e ho letto che hanno sdottorato per ore se il piede di Beckham se il piede di Beckham era in fuorigioco tutto il piede oppure solo l'alluce, o c'era un pezzo di caviglia anche, sì, no? In realtà, diciamo così, se proprio si deve usare la moviola, sarebbe il caso di usarla comunque con un rallenti, ma mai insomma per vedere l'evento nella sua fissità, perché nella fissità è praticamente impossibile, cioè prendere proprio il tocco di piede, il tocco di mano, la palla che batte sulla linea, è molto molto complicato. Se invece si usasse la moviola almeno con guardando il movimento dell'atleta, forse se ne ricaverebbe di più. Il problema è questo, che essendo a mio parere un trucco cinematografico, cioè di fatto il rallenti fa parte dell'estetica cinematografica, è che è un trucco usato per dare, insomma, per enfatizzare, o come dice lo stesso Alfieri, addirittura per dare un significato diverso, no? Ad una certa azione. Questa cosa chi usa la moviola la sa, e quindi in un certo qual modo fa spettacolo con la moviola, e in questo non devono cadere, non deve cadere il tifoso che guarda la moviola, cioè dovrebbe comprendere che molto è fatto per lo spettacolo televisivo e non in realtà per la ricerca di una presunta verità, insomma. Sì, sì, sì. Nicola, ho letto nella sua lettera che lei è napoletano, vive e lavora a Roma, ho già citato il suo mestiere, ma lei mi dice anche che ha giocato ininterrottamente per una ventina d'anni, ha anche allenato dei ragazzini del Sacro Cuore di Napoli. È stata una grande soddisfazione, molto divertente, poi mi ha dato modo di capire in realtà cosa è il calcio, perché ho capito che tante persone parlano di calcio senza averlo mai giocato, dovrebbero per esempio comprendere, sapere che ci sono calciatori che cadono ma senza simulare perché sono più leggeri di altri, ci sono persone che non cadono mai non perché non subiscano fallo ma perché in realtà sono un po' più tosti, come si suol dire, rispetto ad altri. Zidane era il prototipo di questi, per Zidane cadere era un'onta. Quindi, è vero, è verissimo. Quindi nella valutazione, ecco, rimanendo al calcio, perché nella valutazione della situazione, quando si guarda la moviola bisognerebbe conoscere tante cose. Io credo che chi usi la moviola tutte queste cose le sappia, in realtà ne fa un uso televisivo, che è un uso di spettacolo. Certo. Poi nel calcio l'uso di queste di molte telecamere, eccetera, ci fu un caso nei mondiali di Francia. A un certo punto noi non vedevamo più il gioco, vedevamo solamente i primi piani, i piani americani, i totaloni del campo. La realtà, ora mi sembra che si sia fatto un passo indietro, la realtà è che le vecchie riprese televisive degli anni 60 in realtà sono quelle migliori, perché il campo bisogna vederlo per quanto ci può offrire chiaramente la televisione nella sua interezza, solo così forse riusciamo a capire qualcosa del gioco. Guarino, visto che lei ha fatto un discorso tecnico, doppiamente tecnico, cioè sia da un punto di vista di regia, insomma di riprese, diciamo, e sia da un punto di vista invece di praticante, a suo parere quale sarebbe un uso possibile o corretto non della moviola ma del non della moviola perché lei l'ha già demolita, bravissimo, ma del mezzo tecnico a supporto di, cioè in quale tipo di episodi secondo lei? Per esempio si è tentato, questo per amor del vero, si è tentato di mettere molte telecamere per esempio sulla linea di porta per i cosiddetti gol fantasma. Sì. In quel caso in realtà si erano usate 4 telecamere che scattavano più fotografie al secondo, cioè andavano circa, mi pare, intorno ai 100 fotogrammi al secondo, perché così potevamo avere un po' tutti i passaggi. È una cosa interessante, ma si può capire che metterla su tutti i campi d'Europa è tra l'altro una tecnologia molto raffinata, non è una tecnologia da ridere, cioè dotare tutti i campi di calcio, magari anche solo quelle serie maggiori, di tutte queste telecamere molto, molto tecnologiche, insomma da una tecnologia molto avanzata, chiaramente c'è un costo ed è molto complesso, e poi ci dovrebbero essere delle persone a monte che devono guardarle queste telecamere. Leggevo però oggi sulla Repubblica che in realtà c'è il dubbio che qualcuno già abbia fatto questo grande fratello, già abbia usato questo grande fratello, lo leggevo in un articolo di Ripollina, mi pare, sì, che parlava appunto dell'uso di alcuni giudici, insomma, occulti, mi pare, sì, di Pollina, di alcuni giudici occulti che guardano queste telecamere, che consigliano all'arbitro nell'auricolare cosa fare. In realtà sì, ci potrebbe essere, ecco, secondo me, un giudice, un cosiddetto giudice di sedia, in questo caso un giudice di monitor, che in maniera assolutamente però univoca, cioè nel senso dovrebbe parlare solo con l'arbitro e l'arbitro solo con lui. Quindi tutto il resto, secondo me, dello stadio, dei giocatori, non dovrebbe sapere cosa si dicono, perché solamente in questo modo potrebbe sì dare delle indicazioni, perché è inutile negarlo, in qualche caso la ripetizione dell'evento, cioè riguardare l'evento, potrebbe giocare, in qualche certo. caso si può aiutare. Certo. Il problema è questo, che se c'è un fuorigioco di 3 metri e l'arbitro non fischia la palla va in porta, si può tornare sulla propria decisione. Se invece l'arbitro fischia al contrario, cioè nel senso, se non c'è fuorigioco e l'arbitro lo chiama, che facciamo? Dove riprendiamo? Certo. C'è un po' questo problema, quindi sarebbe un ulteriore studio da fare sull'applicazione di questo Grande Fratello, un po' come si fa tra l'altro nel football americano, certo, dove però la cosa è molto particolare. Sì, ma è molto diverso. Ci sono pochi campi, le regole sì, sono poi il gioco l'azione si ferma. È già sempre fermo di suo. Guarino, io la devo interrompere perché se lei è un ascoltatore della prima ora sa che a quest'ora è tempo di traffico. Dunque la ringrazio davvero. Per il suo intervento, un giorno o l'altro magari andremo avanti su questo tema. Torniamo in onda e diamo un po' di spazio agli ascoltatori prima di avere poi dopo il secondo intervallo un altro ospite, in questo caso anziché un debuttante, no? Uno di voi, un ascoltatore che ha scritto una mail un po' lunga per la verità, sicché vi pregherei, se scatta il gioco dell'emulazione, vi pregherei di contenervi dal punto di vista della lunghezza delle mail, ma questa era veramente di particolare interesse perché non pretendeva di essere esaustiva sul problema Moviola sì, Moviola no, non c'entra nulla, credo abbiate capito che non era questo il punto era se tecnicamente è ammissibile ed è credibile come strumento, è diverso. Poi questo era a monte, a valle di questo ci sono mille altre considerazioni possibili. Ha chiamato Giorgio da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Buongiorno. Guardi, proprio in merito a quello di cui stavate parlando prima, no? Io frequento da 30 anni più o meno lo stadio regolarmente, quindi mi vedo circa una ventina di partite all'anno. E ho notato proprio che chi come me è un assiduo frequentatore, cioè a chi piace il calcio visto dallo stadio, io penso, ho proprio notato che coloro che si appassionano delle moviole, ma quello aveva il naso 3 centimetri più avanti del piede di quell'altro, eccetera, normalmente sono i tifosi da televisione, perché chi frequenta lo stadio sa benissimo che l'evento che vede è quello che rivediamo dopo in televisione. Io sono abituato a registrarmi la partita e poi riguardarmela, è tutta un'altra partita. Quante volte, a parte l'episodio fuori gioco più o meno il centimetro, quante volte io vado allo stadio, vedo un gol, torno a casa convinto che la palla, per esempio, sia entrata a destra del portiere, la rivedo in televisione, la palla è entrata a sinistra del portiere, ma io da quell'angolazione dove ero a vedere la partita l'ho vista in un altro modo. E la stessa cosa vale per l'arbitro e, anche se meno, per i segnaline, meno perché loro dovrebbero essere più o meno sempre in linea. Quindi sì, Giorgio, la partita vera è quella. Io sono completamente d'accordo con lei. Dobbiamo però tener conto che il calcio è uno sport, prima che poi è diventato spettacolo, che è sempre stato uno spettacolo, chiamiamolo così, reale, ma da anni, da molti ormai, è diventato virtuale. È diventato virtuale proprio per le ragioni. Per le ragioni che racconta lei, perché è talmente preponderante la massa di chi il calcio lo guarda soltanto in TV e quindi può fruire di tutti questi aiuti, che io chiamo orpelli invece, in più, che questa massa non c'è più proporzione tra il numero di chi ne fruisce televisivamente e di chi invece lo vede in tempo reale sul campo, quello vero. Sergio Brescia, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io sono interista, vorrei farle una domanda per sapere lei di cosa ha capito lei di questa situazione, cioè nel senso, io reputo Vieira un ex giocatore oramai, lo reputo anzi un personaggio che non mi piace proprio per niente, che si becca un sacco di soldi e che per l'Inter non ha praticamente fatto niente. Vorrei dire che l'Inter si è privata di un giocatore come Dacour, che in un modulo come Mourinho, che sempre sta facendo giocare uno schermo praticamente davanti alla difesa, che nel Porto era Costigna se non sbaglio, nel Chelsea era Makalele, forse nel caso in cui cambiasse si dovesse far male, non veniva comodo un giocatore come Dacour? Ecco, voglio sapere questo. E poi vorrei sapere che fine ha fatto quell'altro delinquente di Solari, e in che squadra gioca e se ruba ancora lo stipendio a qualche parte. Grazie. Ma Solari non ha mai rubato nessun stipendio, non è mai stato un delinquente, anche se il suo termine spero fosse, e mi spareva fosse usato ironicamente, e Solari credo sia stato ceduto. Non faccio un po' di fatica a seguire l'altro, arrivi e partenze di tutte le società, ma c'è Flavio Solari che ha già azionato il suo computer di là dallo schermo, e quindi tra poco le saprò dire che fine ha fatto Solari. Quanto ad Acur, sinceramente non glielo so dire. Vieira, certo, è uno che di problemi ne ha avuti tanti e ne ha sempre avuti, e posso anche capire che un tifoso dell'Inter a un certo punto si spazientisca. D'altra parte credo anche che nessuno si infortuni volontariamente o si infortuni per piacere, e quindi capitano i periodi in cui giochi poco. Non capisco perché ci debba essere solidarietà per Cristiano Zanetti da parte mia per primo, perché è un giocatore che mi è sempre molto piaciuto e che avrebbe fatto una grande carriera se non fosse stato così fragile, e quindi solidarietà per uno, e perché invece debba essere reputato un mangia stipendi Vieira. Non bisogna entrare nell'ottica del tifoso per riuscire a capire questi misteri. È rottura, leggo dall'Ansa appena uscita, tra Lucarelli e il Parma. Lucarelli non è stato, parlo di Cristiano del centravanti, non è stato convocato per la partita di domani sera contro l'Ancona per motivi disciplinari, decisione presa da Guidolin dopo l'allenamento di stamane, dopo che il giocatore senza autorizzazione ha abbandonato il campo durante gli esercizi tattici. Tocca a Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti naturalmente per la trasmissione, e cercherò di essere rapido. In realtà volevo tornare sull'argomento Moviola, che chiaramente divide e unisce moltissimo. L'intervento a cui avete dato spazio è stato veramente molto interessante, per certi versi molto utile anche proprio per il suo piglio tecnico. Io però su questo dibattito sono un pochino più non so, nel senso, il calcio ormai, voglio dire, la sua dimensione spettacolare l'ha guadagnata da tanto tempo, e le perplessità rispetto all'utilizzo e all'impiego di determinate tecnologie, al costo che comporterebbero, mi pare sinceramente forse il problema minore. La differenza ormai fra il nostro sport e il football americano, visto che è stato citato ed è uno sport che io seguo abbastanza, mi pare che appunto con il tempo si sia andata quantomeno riducendo, nel senso che le nostre partite sono già di fatto estremamente spezzettate, e già di fatto il colloquio fra il quarto uomo e l'arbitro consente all'arbitro sostanzialmente di interromperlo e poi di far riprendere il gioco. Sicuramente nel caso in cui ci sono delle decisioni rispetto alle quali non si può tornare indietro, non si può tornare indietro per le caratteristiche del gioco. Fatto sta che io ho l'impressione che potremmo convenire tutti sul fatto che veramente all'interno del calcio spesso le decisioni arbitrali, adesso anche in questo caso senza voler essere maliziosi, hanno molto condizionato i risultati, e visto proprio l'esigenza, io credo, di mettere i risultati fronte a tutto, da parte mia non chiedo un commento suo proprio in virtù di quello che dico. Credo che tutto sommato tentare di valutare se l'utilizzo della Moviola in campo potrebbe apportare dei miglioramenti, credo potrebbe essere il danno minore, perché comunque una soluzione, dice lei, una soluzione possibile, mi scusi, ma siamo al secondo minuto e fischia, insomma, una certa misura gli interventi ci vuole. Lei è favorevole perlomeno alla sperimentazione? Benissimo, devo rispondere all'ascoltatore di prima. Gioca nel San Lorenzo, nella squadra argentina del San Lorenzo, Solari. Domenico ha chiamato di là da Prato oggi sta facendo la parte del leone. Dica Domenico. Pronto, mi sente? Certo, forte e chiaro. Senta, alcuni fautori della Moviola prendono a pretesto altri sport tipo il rugby, e io seguo a volte come in questo caso tra poco ci sarà il torneo delle Sei Nazioni, no? E ho visto a volte che gli arbitri di rugby utilizzano la Moviola, la televisione che sta sopra, per stabilire se una palla ha effettivamente passato la linea di meta oppure no. Certo. Perché succede che quando soprattutto c'è un'azione di mischia vicino alla linea di meta e tutti si avventano sul pallone, diventa impossibile stabilire se la palla ha passato la linea oppure no. Quindi il pretesto, cioè non si può secondo me usare prendere a pretesto questo sport, come per esempio il football americano, per giustificare la presenza della moviola in campo. Anche a parer mio, infatti, fermo restando una differenza, Domenico, grazie, una differenza fondamentale su cui altre volte già ho provato con qualche successo, ma senza però convincere chi la pensa diversamente, come è giusto che sia, ho già provato a esibirmi, e cioè il fatto che il rugby è uno sport giocato da galantuomini in campo e seguito da autentici sportivi sugli spalti. Se non fossero galantuomini in campo si ammazzerebbero, no? Data la violenza intrinseca che c'è in quella disciplina. Tutto questo habitat esterno da parte del pubblico e interno da parte di chi lo pratica fa sì che ci sia comunque un tasso di sportività che porta ad accettare qualsiasi cosa, anche una decisione che viene ribaltata nel giro di qualche minuto vissuto in serena attesa. Io credo che chi è stato anche una sola volta su un campo di calcio di provincia o di metropoli e ha sentito, a maggior ragione andando avanti negli anni ed arrivando ai tempi nostri, ha sentito e ha vissuto il livello di civiltà che c'è, per di più conosce il calcio e conosce il livello di sportività che c'è dentro il campo, il livello di sportività a cui si gioca, credo che non possa, onestamente, in tutta onestà, non possa stabilire un parallelo tra il calcio e il rugby, perché sono due mondi completamente diversi, in cui ci può stare da una parte il ricorso in piena serenità e in piena accettazione a un mezzo esterno, e mentre nell'altro creerebbe, a parer mio, effetti devastanti. No, devastanti è un aggettivo che usano troppi telecronisti, effetti negativi. Torniamo in onda lasciando da parte l'argomento moviola, che poi riprenderemo in questi giorni, e sempre da angolazioni diverse, per arrivare non a una conclusione a cui non si arriverebbe comunque mai, ma semplicemente per provare ad approfondire gli argomenti e per spiegare, per esempio, da parte mia, perché io sia così contrario all'utilizzo di questo strumento infernale. Sapete che il mio slogan è non di introdurre la moviola allo stadio, ma di levarla dallo studio, e cioè da qualsiasi studio televisivo. Uno che di moviola tanti anni fa, anzi uno che non ha avuto bisogno di moviola tanti anni fa per saltare in campo e capire che c'era qualcosa che non andava, si chiama Gigi Simoni. Buongiorno Gigi. Ciao, buongiorno. Anche se non vorrei, buongiorno a te, anche se non vorrei rinvangare, certamente non ripigliarla da lì. Gigi Simoni, da un po' di tempo, sì, da un po' di tempo ti vediamo ogni tanto in TV, ma non ti vediamo più né su campo né dietro una scrivania, e vorremmo sapere perché. Ma per la verità, diciamo che il calcio mi manca, no? Perché il calcio praticato, diciamo, anche gli stress che vengono meno sono ad esempio una deficienza invece di essere un vantaggio. Però nell'ultimo periodo probabilmente c'è stata l'idea che io volessi smettere di fare l'allenatore, il mio lavoro, e invece non è così. E allora probabilmente si è sparsa la voce, ed è una voce sbagliata, perché io ho ancora il desiderio, ho avuto anche delle proposte che però in questo momento devo valutare, ecco, devo pensare bene a cosa faccio. C'ho il bambino che ha 10 anni. 10 anni adesso. E ho fatto tanti anni di lavoro, insomma. Però l'occasione è piacevole, direi che l'affronterei con un entusiasmo e con delle qualità probabilmente migliori di quelle che avevo, perché il fatto di star fuori ti fa pensare, valutare tutte le situazioni generali, mentre quando lavori, che hai la tua squadra, pensi a quella, e probabilmente lo spazio, diciamo così, che l'orizzonte non è enorme. Certo, però, insomma, più limitato. Sono contento lo stesso, la mia parte l'ho fatta. Non c'è dubbio, sì, ma intanto mai dire mai, e poi aspettiamo, sì, aspettiamo un'occasione come si deve per un'altra esperienza e un altro giro di pista. Esatto. Senti, questo, sì. Anzi, credo che a maggior ragione, ma l'hai appena detto in un'altra chiave, a maggior ragione passerai il tempo a documentarti, no? Immagino, a seguire quello che sta accadendo. Certo. Ma documentarmi anche diciamo, perché magari mi chiamano le televisioni a fare dei commenti, certo, partite, lo stesso anche a Firenze. e quindi insomma cerco di arrivare preparato, non voglio neanche al microfono fare delle brutte figure, quindi lo seguo tanto il calcio, poi diciamo che è la mia vita, quindi ancora oggi fa parte del mio pensiero quasi quotidiano, ecco, al di là della famiglia. Allora, al di là del piacere di risentirci, di riabbracciarti, sì, ma non io, sto parlandoti di tutti i messaggi che stanno fioccando, perché tu sei una di quelle persone che quando, come si sente la tua voce, cominciano ad arrivare per l'appunto gli SMS che arrivano da Cremona, da Genova, i primi, eccetera. Tanto poi tu sei un ex quasi globale, perché insomma hai allenato mezza Italia, no? E per fortuna hai lasciato buoni ricordi un po' dappertutto. Io ho preparato per te 3-4 domande che si fanno ai saggi, per l'appunto, verificare se magari un'idea che uno si è fatto può essere giusto o no. Allora, la prima è questa. Io sostengo che Ronaldinho prima, Beckham poi, ma anche qualche altra figurina, possono coesistere solo in una squadra come il Milan, che ha un sistema di gioco, un sistema ambientale collaudato da tanti anni. Dico bene o dico sciocco? No, questo è vero. Diciamo che tutti e due assieme, considerando gli altri giocatori che ci sono, sono un po' troppo, magari. Che probabilmente non ci si può permettere, parlo sul piano tattico. Sono giocatori meravigliosi, giocatori che hanno... Poi voglio essere sincero, io non mi aspettavo un Beckham di questo valore, anche perché ha fatto una grande carriera, tutto, però non lo consideravo un giocatore così capace di essere importante per la qualità, per la semplicità delle cose importanti. Che fa? E devo dire che questo mi ha sorpreso grandemente, come penso abbia sorpreso molti. Tutti. Però assieme fanno fatica a giocare, ecco, sì. Questo è un po' il problema. Anche se il desiderio di tutti noi che siamo appassionati, li vorremmo, più sono bravi e più ne vorremmo vedere insieme. Però poi il calcio ha anche delle altre esigenze, ha delle esigenze tattiche, delle esigenze atletiche, magari, non so, quello che è riuscito a fare Beckham non è riuscito a capirlo probabilmente ancora Ronaldinho, anche se è stato determinante in questa prima fase del campionato per il Milan. Comunque sono grandi giocatori, il Milan ha questo grande capacità di far gestire giocatori anche anziani di grande qualità, perché gli dà delle prospettive anche future, sì. E non tradisce mai nessuno, e questo è una, questa secondo me è una garanzia per i giocatori che ci vanno. Ma è bello che ci sia anche il Milan, devo dire la verità, nel campionato italiano. Beh, questa è bontà tua, insomma. No, senti Gigi, ci può essere un diciottenne di talento, di qualità e di avvenire, che debutta come se niente fosse e che ha comportamenti normali e magari si può chiamare Santon. Ci può essere un diciottenne o un diciassettenne, anche meno, che debutta, dimostra qualità rare, molto rare, ma poi però è di difficilissima gestione e si chiama Balotelli. Può darsi che nascano, cioè il caso vuole che nascano magari sotto lo stesso tetto e che maturino più o meno contemporaneamente. Tu saresti stato più della scuola, diciamo, bastone carota di Mancini dell'anno scorso o della scuola bastone di Mourinho di quest'anno? Intanto questi sono due campioni, due ragazzi che hanno le basi per poter diventare campioni. Santon è una sorpresa incredibile, con una, ti porta dei certificati di garanzia che ti danno piena fiducia nel crederci, ecco. Balotelli è un ragazzo che o migliora o cerca di capire come deve essere anche la vita di un professionista, o se no magari sono tutte qualità buttate un po' via. Per quello che dicevi come domanda, io apprezzo, diciamo, le richieste di Mourinho, nel rispetto, perché anch'io pretendo le stesse cose sotto l'aspetto della disciplina, dei comportamenti, nel saper accettare certe situazioni, e condivido benissimo quello che lui vorrebbe ottenere, però ho sempre cercato di ottenerle queste cose in un sistema diverso, con un comportamento più morbido, perché questo faccia parte del carattere di ognuno, con un comportamento più di grande fiducia. Io per esempio non avrei sfiduciato tanto Cordova dopo la partita di Bergamo. Già. E magari lui ha ottenuto lo stesso il suo risultato, però io, uno come Cordova che non ha tradito l'Inter per 5, 6, 7 anni, mai una volta, se una volta fa un errore non lo starei a dire in televisione, ecco. Questo è il comportamento di ognuno, però apprezzo la richiesta, il modo di arrivarci magari è un attimo diverso. Stai lì Gigi, capisco, perché cioè basta sentirti parlare per capire perché la maggior parte dei messaggi che arrivano sono richieste di salutare questo signore del calcio, come per esempio scrive un ascoltatore, di salutare questo galantuomo, come scrive un altro ascoltatore, in questo caso Amedeo da Milano. Non sto a leggere tutte le firme o tutte le cose, te ne leggo uno limite e poi ti chiedo di restare un minuto in stand by, come si dice, in attesa, perché che poi dobbiamo mandare le notizie sul traffico prima del gran finale. Senti questa: sono uno juventino sportivo che ho sempre apprezzato Simone, per dire la sua grandezza e la sua educazione. Ricordo che a Ceccarini quel giorno urlò "si vergogni, non vergognati", dandogli come minimo, dandogli anche del lei. Beh, questa la trovo fantastica, fantastica. Questo messaggio si conclude con un chapeau, Monsieur Simoni. Torniamo in compagnia di Gigi Simoni, che è sempre molto gradita. Gigi, qua ci sono un po' di fiorentini che chiedono se stasera ti vedono regolarmente a Canale 10. Presente, perfetto, quindi accontentati ma soprattutto rassicurati. Perché la Juventus, a parer tuo, va in questa maniera? Ormai è la seconda volta, il secondo ciclo di quest'anno, no? Cioè grandi risultati consecutivi, filotti, strisce, cose, poi crollo abbastanza verticale, breve la prima volta, adesso vediamo questa, ma crollo improvviso proprio, è un problema come secondo te, atletico, che cosa? Ma indubbiamente il campionato della Juve è sempre di grande livello, perché secondo me è una squadra che affronta domenicalmente dei grandi problemi anche sul piano delle scelte, con gli infortuni che ha avuto, con i giocatori che vengono a mancare, che quindi ti danno modo, cioè non ti danno modo di avere continuità. Può essere un periodo forte che il giocatore si fa molto bene, poi insomma, però non c'è secondo me la continuità di una formazione che porta avanti continuamente un suo assetto. E questo è un grave problema. Loro certo hanno creato un gruppo eccezionale, cioè quando la vedi giocare la Juve non è che ti esalti per i valori tecnici, a parte alcuni giocatori, del Piero in primis, però è soprattutto una squadra che va in campo per ottenere il risultato, per lottare, per combattere, per difendere questo periodo negativo della Serie B. E cioè vedi una squadra che vuole riscattarsi attraverso i risultati, e quindi è piacevole. Poi è chiaro che quando ti mancano giocatori dell'importanza, oggi non dico neanche i nomi perché sono il rendimento può essere magari quello negativo. Anche se devo dire la verità, molto spesso pur non giocando bene è premiata dal risultato. E quindi sta facendo bene, il campionato è di buon livello, è arrivata, va avanti in tutte le competizioni, e quindi credo che sia considerato tutto meritevole di un applauso anche il nostro Ranieri, attaccato ingiustamente a volte dalla stampa, però secondo me invece è un ottimo allenatore. Senti, per bilanciare un pochino tutti i messaggi di prima, senti questo che arriva da Como, Andrea Costantini: io tutto sto amore per il Milan non riesco a capirlo, siccome in Italia c'è sempre sotto qualcosa, mi chiedo come mai Simoni parli così bene del Milan. Capisci che parlo così bene del Milan? Questo signore allora, sente puzza di bruciato. Gigi, io parlo bene del Milan perché il Milan ha un suo comportamento che può essere discutibile, però, come ho detto, non tradisce mai nessuno, non lo faccio per Berlusconi, perché non ho rapporti con Berlusconi, però vedi giocatori che a 37-38 anni sono ancora apprezzati, la società non li abbandona, porta avanti, e questo secondo me è una carta che, di garanzia, che loro presentano e che i giocatori cercano di ricambiare attraverso poi il gioco, la qualità, la serietà. Milan è un'ottima squadra, io l'ho attaccata quest'anno quando ha fatto la campagna acquisti, dicendo che secondo il mio pensiero poteva avere delle attenzioni diverse, verso reparti diversi, invece di comprare 5-6 mezze punte poteva prendere anche un paio di difensori di valore. Certo. Però questo non mi fa così allontanare una stima, diciamo anche affettivamente. Io sono più interista, è chiaro, però apprezzo anche quelli che lavorano bene. La Juve ne ha scippato un campionato, eppure non ne parlo male perché sono stato un ex giocatore della Juventus. Come no? Perché ho sempre apprezzato il comportamento della Juve. Cioè, poi alla Juve capita un personaggio che magari gli rovina un po' la faccia, non penso che la Juve sia poi così colpevole. Ecco. E l'importante è che prima o poi, in un modo o nell'altro, se ne riesca comunque a liberare, insomma, no? Certo, in un modo o nell'altro. Gigi, dato che insomma, il tempo in questi casi passa anche più velocemente che in altri, l'ultima domanda è questa: proprio perché hai lasciato tracce